back to back. Bello il microfono. Thank you, Chicago. Yeah. Avvicinatelo. Thank you, Verona. Sprava. Yeah. Dovrei parlare in inglese, io ho visto che Scott parlava. Dai, parlo in inglese. No, dai, parlo in italiano, però. In carità. Parlo in dialetto. Parlo in italiano alla fine. Eccoci qua. Sì. Allora, vi presento i musicisti, anche se lo scelte lo stesso. Simone Sferruzza alla batteria. Sferruz. Il Tolli, Michele Montolli, il contrabbasso. E io questa sera Freddy D. Questo era un pezzo del mio pianista preferito, posso dire, che è Amal Jamal, che è ancora al mondo e ancora suona, ha 93 anni. C'ho l'eco. Bello questo riverbero. C'ho il riverbero. È una piazza grande. Grande piazza, yeah, come on. Ciao Verona. Ciao Verona. Ah, è andato via. Ecco, il prossimo pezzo è In the Down. A dopo i discorsi di politica, va bene? Di politica veronese, però non italiana. No, italiana. Mi basta la parola italiana. Ma torni! Ma va a cagare. Ma thank you. Thank you. Facciamo una parte sì. Tonica. Facciamo l'esempio del tipo. No, no, no, sono portato la tonica. C'è dai, sì. Bene. Partiamo con Ryuko Jan. Vuoi dire qualcosa? No. Non lo so. Il prossimo è un pezzo che ho scritto l'estate scorsa, ispirato da terre lontane, un po' a est. Quindi, un bel po' a est. L'abbiamo intamarrata un po' per questa sera. Thank you. facciamo. Chiudiamo sta serata, com'è ragazzi? Come sentite? Dai, allora, andiamo, ci andiamo. Ma vicini non si sono fatti sentire. Vai. No, dai, andiamo. Lisbeth. Ok, ci sto. L'uccellino è stato Marcello. L'uccellino pigro. L'uccellino pigro, ragazzi. Siamo a stadio, sì. L'uccello pigro. Bacchetta, bacchetta. No, bacchetta. Ok. Va bene. 2, 1, 2, 1, 1. Thank you. L'uccellino pigro non era molto pigro. No. Ci spostiamo un attimo a Cuba. Cuba. Con... Quale pezzo è iniziato? Quella avventura. Sì, sì, sì. Faccio un pezzo che facciamo, un pezzo che mi ha fatto conoscere Robby e che anche mi chiedeva di fare tutte le volte che suonavo il piano. Che è un pezzo di Bebo Valdez e Ciuccio Valdez che lui piaceva molto, si chiama La Comparsa. Thank you. Another one, my friend. Bene, vi suoniamo quella della buonanotte. No. Perché l'ultima, insomma, lenta, tranquilla. Luci soffuse. Luci soffuse, perché già è mezzo bioccato. Lucine soffuse. Thank you. Bistoli. Volevo ringraziare Pera. Dov'è il Pera? Oh. Ah, c'è. Grazie Pera. Grazie Pepe, bella grazie, serata. Pera. Forse l'hai. Abitiamo su... Ah sì, ah sì. Facciamo un pezzo con Scott. Scott. Scott. You wanna play one together? Sì. Suoniamolo assieme. We want Scott. We want Scott. We want Scott. La banda. Riposata, eh sì, sta pieno. Facciamo disco dance. Posso prenderla questa? Sì, prendi, prendi. Ok. Mentre qua così vediamo. Noi. Ci vuoi dare qualche accordo? Dai qualche accordo, no? Ricordate? No, ci dà il culo, ci suona il chitarra. Ok. Sto zitto. Ok. Sono proprio divertita. Io ho fatto bene a spostare la pescata. Ho fatto bene di nella mia pancetta. Prima devo dire che ho piaciuto un sacco la vostra musica. Grazie. Bravi! Sei bravi musicisti. Ti fai un loro sono dei bravi musicisti. Un regalo di jazz per la jazz man, jazz cats. Jazz cats. Secondo me le cose fai la jazz ed è prendere una melodia ed fare distruzione completa di questa melodia e poi trovare da nuovo. Questo è sì. Casi jazz. Allora, io ti regalo una melodia e non la distruggiamo. E poi fare la vostra cosa di jazz là su. E poi vai. Vi troviamo. Vai, vai. Girl, you can lead this life of lingerie and credit cards. You never chose this life, nor does it choose for you. Only certain kind of people think that only certain kind of evil ought to have what's good for me and you. So let me cast aside your diamond rings and fashion magazines. Everybody knows the road. Garden maps no good for me and you. the holes in you, girl. Pardon me, I can be bothered. Let me sign yours, I'll send you some of someone else's pennies for your thoughts, connecting all the dots. Qualsiasi cosa. Ah sì, possiamo fare. Questo è scritto per una banda. Normalmente c'è la prima strofa che è un po' scrofa. E una strofa che cos'è? È mia. Parliamo dopo. Scrofa. No, continua. Allora, ok, il primo scroff è un po' melancolico. E poi c'è la banda che arriva per la seconda scroffa. Ho detto strofa la prima volta. Strofa è giusto. Un gioco di parole, Scotto, scusa. Strofa si dice. Vai bene, faccio quella canzone. Vai, due parti entrano la seconda. Entriamo nella seconda, ragazzi, allora. Roba nostra. Portatelo via. Vai, Scott. Though you sat down, your seat is empty. Still there, you linger. Just where you were. Your heart is nowhere, your mind forgotten. The beauty of the morning sun escaped you for another day. run. But don't forget to worry. Hide, but don't forget your fear. Cry, just another lonely moment. Then rise, rise above your tear. Or when you speak, this room of silence will swallow all you ever heard. The air you breathe, the beer you're drinking, the colors on the faces that you see disappear. Stay, but not forever. Try, try, try, but not for me. Listen to the sound of every with your tears. Facciamo un'ultima. Avete ancora un... Per me sì. Sì. Uno in là insieme. Sì dai, quella dell'obbligo. Tre accordi. Where do you go when the wind blows west? Or east when the wind blows west? Go east. Where do you go when the wind blows west? East, east, you go east. Go east when the wind blows west, go east. And schemers in kind, I got stones in my pocket. Weight on my mind, let me tell you about stories that never grow old. Just lend me your ears and let them swallow. You go, oh, oh, oh, oh, oh. Maybe I won, maybe I stopped. What if we're already sitting on top? Could I sell you a fortune that's already told? Blows west, go east. When the wind blows west, go east. Oh, where do you go? When the wind blows west, go east. When the wind blows west, go east. Now lest I forget all the lives that I've known, that I left far behind as I stood. I lay down the rest, turn it into a stone. Trying, what if I counted the times that I lied? Could I build my own nest and still call it a home? I just don't know. My home was never far away, but all the lights are off. Two stone to set this heart astray, but now this door's been locked. I got keys that unlock everything I was open all along. Man, time come build. Give me some more, we'll settle on changes and making me sore. We're drinking with strangers, this life is a bore. My heart is on ecstasy, never too late. She's standing next to me, no need to wait. Down at the registrar's, everything's gay. Sign on the dotted line, mean what you say. At least I have always to think about why. My mind's on a runaway train to the sky. Carriage is shaking, lights on and off. We're just minding my own in the heavy. Future's already been seen. Could I take you to places we've already been? I just don't know. We'll be right back.